l'offerta della Chiesa unita all'offerta di Cristo. Nel canone romano, dopo l'Unde et Memores, il sacerdote prosegue con l'orazione Supraque, nella quale così prega Dio: «Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote». Questa supplica non si riferisce al corpo e al sangue di Cristo in se stessi, già presenti sull'altare. Racchiude piuttosto un senso chiarissimo riguardante la nostra povera azione di offrire con Lui la nostra vita e il nostro lavoro. Nella Messa è sempre presente Cristo, Dio e uomo, capo e corpo, e pertanto accanto al nostro Signore c'è tutta la Chiesa. Siccome sappiamo di essere molto lontani dalla santità, supplichiamo Dio Padre di volgere su ciascuno di noi il suo sguardo misericordioso, di infondere nelle nostre anime le disposizioni che resero gradite le offerte di quei grandi personaggi dell'Antico Testamento: l'innocenza di Abele, la fede di Abramo, la rettitudine di Melchisedec. In questo modo, la nostra personale oblazione, per quanto povera e piccola, si trasformerà in unione con quella di Cristo in Sanctum Sacrificium Immaculatam Ostiam, in un sacrificio santo e immacolato. Siamo generosi nel portare ogni giorno alla Messa, con piena consapevolezza della sua importanza, il lavoro e il riposo, la malattia e la salute, i successi e gli insuccessi, le gioie e le contrarietà delle nostre giornate. Facciamolo anche a nome di coloro che non conoscono Cristo, di coloro che lo dimenticano, di chi forse lo offende. Traiamo forza dal sacrificio eucaristico per combattere la buona battaglia di pace e di amore alla quale siamo chiamati per l'evangelizzazione della società. La Santa Messa ci invita a sentire cum ecclesia, a pregare Dio che fortifichi la nostra fede personale e quella di tutto il popolo di Dio. Ci spinge a soffrire con coloro che soffrono, a soccorrere con Cristo tutti i bisognosi, ad accompagnare i malati, vera roccia e fonte di fortezza per la Chiesa e per l'umanità, a non sentirci estranei a nessuno, perché il sacrificio della croce ci ha reso figli di Dio in Cristo e perciò fratelli di tutti gli uomini. Come spiega Benedetto XVI, la Messa Domenicale ha un'importanza particolare nell'opera di evangelizzazione, di fraternità. Il Papa ricordava in un'omelia che un gruppo di cristiani furono martirizzati nel secolo IV per aver disobbedito alla legge che proibiva loro di riunirsi di domenica per il culto divino. Significativa, tra le altre, la risposta che un certo emerito diede al proconsole che gli chiedeva perché mai avessero trasgredito l'ordine severo dell'imperatore. Egli rispose: «Sine dominico non possumus», cioè senza riunirci in assemblea la domenica per celebrare l'Eucaristia, non possiamo vivere. Ci mancherebbero le forze per affrontare le difficoltà quotidiane e non soccombere. Dopo atroci torture, questi 49 martiri di Abitene furono uccisi. Confermarono così, con l'effusione del sangue, la loro fede. Morirono, ma vinsero. Noi ora li ricordiamo nella gloria del Cristo risorto. Il Santo Padre invitava allora i cristiani del XXI secolo a riflettere su questo episodio, ora che in molti luoghi non è facile vivere coerentemente la propria fede. Anche la nostra epoca può assomigliare a un deserto inospitale, come quello che attraversò il popolo ebraico per 40 anni. Il Signore nutrì gli israeliti con la manna che li ristorava giorno dopo giorno. A noi viene data l'Eucaristia, vero pane celeste. Abbiamo bisogno di questo pane per affrontare le fatiche e le stanchezze del viaggio. La domenica, giorno del Signore, è l'occasione propizia per attingere forza da Lui, che è il Signore della vita. Il precetto festivo non è quindi un dovere imposto dall'esterno, un peso sulle nostre spalle. Al contrario, partecipare alla celebrazione domenicale, cibarsi del pane eucaristico e sperimentare la comunione dei fratelli e delle sorelle in Cristo è un bisogno per il cristiano, è una gioia. Così il cristiano può trovare l'energia necessaria per il cammino che dobbiamo percorrere ogni settimana. Un cammino, peraltro, non arbitrario. La strada che Dio ci indica nella sua parola va nella direzione iscritta nell'essenza stessa dell'uomo. La parola di Dio e la ragione vanno insieme. Seguire la parola di Dio, andare con Cristo, significa per l'uomo realizzare se stesso. Smarrirla equivale a smarrire se stesso. Facciamo eco a tali insegnamenti del Papa, diffondendoli tra molte persone mediante l'esempio e la parola. Penso alla bellissima testimonianza che può dare con naturalezza e senso soprannaturale una famiglia cristiana, quando i genitori e i figli, a seconda delle circostanze personali di ogni focolare, assistono insieme alla messa domenicale e la seguono con attenzione e devozione. Penso all'efficacia di una parola lasciata scivolare con discrezione all'orecchio di un amico, di un collega, di un parente, nell'apostolato personale di amicizia e confidenza che si rivela sempre fecondo. In queste conversazioni con gli altri cerchiamo di parlare con spontaneità e naturalezza della messa. È un'esigenza della nostra fede. Non perdiamo le occasioni di invitare le persone al compimento del precetto domenicale. Un cristiano coerente non può vivere senza l'Eucaristia. Sine Dominico, non possumus. Proprio di qui sgorga la nostra preghiera, che anche noi cristiani di oggi ritroviamo la consapevolezza della decisiva importanza della celebrazione domenicale e sappiamo trarre dalla partecipazione all'Eucaristia lo slancio necessario per un nuovo impegno nell'annuncio al mondo di Cristo, nostra pace. Efesini 2,14. Lo Spirito Santo e la Chiesa. Senza l'azione del Paraclito, frequentiamolo di più, non trarremmo personalmente beneficio dalla presenza reale e attuale del sacrificio della croce nella messa. Cristo si trova presente in maniera reale e sostanziale sotto l'apparenza del pane e del vino, ma noi siamo limitati. La nostra fede si rivela scarsa, il nostro amore piccolo, le nostre disposizioni mancano della dovuta perfezione, benché davvero desideriamo il contrario. Nondimeno, nonostante la nostra pochezza, contiamo sullo Spirito Santo, capace di illuminare la nostra intelligenza e di infiammare la nostra volontà, di allargare il nostro cuore, di disporre la nostra anima e il nostro corpo a ricevere degnamente e con frutto Gesù nell'ostia. Perciò, rivolto a Dio Padre, quando già Cristo è sull'altare, il celebrante recita in una delle preghiere eucaristiche la seguente orazione: Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. La Santa Messa ci pone così di fronte ai misteri principali della fede, in quanto è il dono che la Trinità fa di se stessa alla Chiesa. Come non ringraziare per questa prodigalità dell'amore divino? Come non adorare il disegno di un Dio tre volte santo che pone le sue delizie tra i figli dell'uomo? Proverbi 8:31. Come non sentire l'anelito di trasformare tutta la nostra giornata in un sacrificio gradito al Padre con Cristo per lo Spirito Santo? Invochiamo spesso la Santissima Trinità nella Messa. Il sacrificio dell'altare ci offre una magnifica opportunità di familiarizzarci con il Paraclito e per chiedere a Dio che il Santificatore non sia né per noi né per gli altri il grande sconosciuto. Di fatto, Egli ci assiste costantemente per dare una dimensione soprannaturale a ogni nostro comportamento. Se cerchiamo il suo aiuto, saremo più cristiani. Nella vita familiare, nel lavoro, nel riposo, nelle diverse circostanze in cui ci troviamo. L'ineffabile presenza del Santificatore ha inoltre un altro effetto legato alla comunione sacramentale, quello cioè di rinforzare l'unità del corpo mistico di Cristo, che viene edificato grazie all'Eucaristia. Lo mettono esplicitamente in risalto le preghiere eucaristiche. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. In occasione di una festa di Pentecoste, Benedetto XVI faceva notare che si trovavano in quel giorno a Gerusalemme, secondo quanto riferiscono gli Atti degli Apostoli, giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Atti 2:5. Ed ecco che si manifesta il dono caratteristico dello Spirito Santo. Tutti costoro comprendono le parole degli Apostoli. Ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Atti 2:6. Lo Spirito Santo dona di comprendere. Supera la rottura iniziata a Babele, la confusione dei cuori che ci mette gli uni contro gli altri, e apre le frontiere. Il popolo di Dio, che aveva trovato al Sinai la sua prima conformazione, viene ora ampliato fino a non conoscere più alcuna frontiera. Il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, è un popolo che proviene da tutti i popoli. La Chiesa fin dall'inizio è cattolica, questa è la sua essenza più profonda. La Santa Messa è davvero un buon momento per pregare per l'unità della Chiesa e persino per quella di tutto il genere umano, per sentire nella propria anima le difficoltà, le pene, le preoccupazioni di tanti uomini e di tante donne, nostri fratelli. Dobbiamo perciò continuamente pregare che lo Spirito Santo ci apra, ci doni la grazia della comprensione, così da divenire il popolo di Dio proveniente da tutti i popoli. Ancor più, ci dice San Paolo, in Cristo che come unico pane nutre tutti noi nell'Eucaristia e ci attira a sé nel suo corpo straziato sulla croce, noi dobbiamo divenire un solo corpo e un solo spirito. Non dimentichiamo infine che per il fatto che il Santificatore si dona a noi, ogni giornata può avere per noi le caratteristiche di una nuova Pentecoste. Possiamo trasformare il passare delle ore in una realtà di grande rilevanza sul piano soprannaturale e umano. Intercedere per il mondo intero. Soffermiamoci un momento sulle orazioni di intercessione per i vivi e per i defunti. Nel canone romano queste si trovano rispettivamente prima e dopo la consacrazione, nelle altre preghiere eucaristiche si inseriscono dopo. La preghiera eucaristica seconda del Messale romano si ispira a un'orazione attribuita a Sant'Ippolito. Fu quindi composta a Roma verso la fine del secondo secolo. Questa preghiera descrive l'essenza del ministero sacerdotale con le parole con cui nel libro del Deuteronomio 18:5-7 veniva descritta l'essenza del sacerdozio veterotestamentario. Astare coram te et tibi ministrare. Stare davanti al Signore e servirlo. Consideriamo la grandezza alla quale siamo chiamati, supplicando il Signore di non lasciar mai entrare nella nostra anima il minimo segno di routine mentre celebriamo o prendiamo parte al sacrificio eucaristico. Questo stare e servire si compie in modo particolare durante le intercessioni, quando il presbitero, in piedi e con le mani rivolte verso l'alto, chiede a Dio di riversare la sua grazia sulla Chiesa e sul mondo intero. Il sacerdote deve essere una persona retta, vigilante, una persona che sta dritta. Ciò che il sacerdote fa in quel momento, nella celebrazione dell'Eucaristia, è servire, compiere un servizio a Dio e un servizio agli uomini. E in questo servizio sacerdotale agisce in nomine ecclesie, in rappresentanza di tutti i fedeli. Con queste parole dal contenuto profondo ci viene ricordato che il popolo radunato intorno all'altare non forma mai un gruppo privato di persone. La Chiesa universale vi è sempre presente. Non si tratta mai di una chiesuola, ma piuttosto di una cattedrale in cui tutti sono riuniti. Nella Santa Messa non c'è mai soltanto il sacerdote che agisce e offre il sacrificio in persona Christi con coloro che assistono. In ogni celebrazione del santo sacrificio dell'altare, per Cristo, con Cristo e in Cristo, è presente la Chiesa universale. Perciò non si tratta mai della celebrazione privata di un gruppo, piccolo o grande che sia. La messa si compie sempre cum Papa et Episcopo nostro, cum Episcopali ordine et universo clero et omni populo. Preghiera eucaristica terza. Questo accade anche quando il sacerdote sia assistito solo da un accolito. L'importante, non stanchiamoci di considerarlo, è ciò che opera Cristo, non ciò che operiamo noi uomini. Nostro Signore interviene sempre come sommo sacerdote e come vittima del santo sacrificio, indipendentemente dalla solennità con cui venga celebrata la messa o dal numero di fedeli che vi assistano. E Cristo associa sempre a sé il suo corpo mistico. Così si comportò quotidianamente il fondatore dell'Opus Dei, che, grazie alla sua identificazione con Cristo, durante la celebrazione eucaristica si sentiva rappresentante dell'umanità e persino dell'intera creazione. Io, nella messa, non sono mai solo, mi sento molto accompagnato, assicurava. Celebro la messa con tutto il popolo di Dio. Dirò di più, mi trovo anche con coloro che ancora non si sono avvicinati al Signore, con coloro che sono lontani e non appartengono ancora al suo gregge. Anche quelli li porto nel cuore. E mi sento circondato da tutti gli uccelli che volano e attraversano l'immensità del cielo, tanto che alcuni di loro guardano faccia a faccia il sole. E mi sento circondato da tutti gli animali che popolano la terra, quelli razionali, cioè gli uomini, per quanto a volte noi uomini perdiamo la ragione, e quelli irrazionali, che scorrazzano su tutta la superficie del globo, oppure abitano le viscere nascoste del pianeta. Sì, io mi sento così, quando rinnovo il santo sacrificio della croce. Il memento dei defunti. La Chiesa, madre buona, seguendo una tradizione già presente nell'Antico Testamento, non dimentica chi ha già lasciato questo mondo e prega devotamente per lui con un profondo senso della grande ricchezza che rappresenta la comunione dei santi. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. È commovente riconoscere in queste parole un'eco della preghiera dei primi cristiani. Quei nostri fratelli trasformarono il mondo pagano con la loro fede in Cristo e la loro accesa carità reciproca, che andava ben al di là dei confini di questa terra. Che sicurezza ci dà la certezza che quando avremo reso l'anima a Dio, ci saranno nostre sorelle e nostri fratelli che offriranno il santo sacrificio in suffragio per noi, aiutandoci così a giungere quanto prima alla dimora del cielo. Sforziamoci di pregare ogni giorno per tutti i defunti, anche per coloro che, come segnalano alcune preghiere eucaristiche, pur senza aver ricevuto il battesimo, si sono uniti a Cristo per vie che solo il Signore conosce e sono morti in amicizia con Dio. Il fondatore dell'Opus Dei recitava ogni giorno questa preghiera con particolare intensità. Quando arriva il momento dei defunti, affermava: che gioia ricordarsi di tutti quanti. Naturalmente prego in primo luogo per i miei figli, per i miei genitori e per i miei fratelli. Per i genitori e per i fratelli dei miei figli, per tutti coloro che si sono avvicinati a me o all'Opus Dei per farci del bene, lo faccio con animo grato. Poi prego, lo faccio con ancor maggiore convinzione, per chi ha cercato di diffamarci con la menzogna. Lo faccio per buoni motivi, lo perdono di cuore, Signore, perché tu mi perdoni. Inoltre offro per lui gli stessi suffragi che offro per i miei genitori e per i miei figli. Come ci si sente felici quando ci si comporta così? La dossologia finale. Finite le intercessioni, la preghiera eucaristica si avvia al termine. Il sacerdote, prendendo nelle sue mani il corpo e il sangue del Signore ed elevandoli alla vista dei fedeli, recita la lunga dossologia finale. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Il popolo all'unisono risponde con l'amen più importante della messa, espressione del sacerdozio regale di Cristo ricevuto nel battesimo. È molto antica questa acclamazione che già nel secondo secolo San Giustino menzionava. Dopo che il vescovo ha terminato le preghiere e l'Eucaristia, tutto il popolo presente esclama e dice Amen. Amen, in lingua ebraica, significa sia fatto. In questa proclamazione che deve risuonare con forza sulle labbra di tutti, viene riassunto il senso della nostra vita intera, unita a Cristo nel sacrificio eucaristico. Si capisce allora con gioia, ripeterlo non fa male, che tutte le opere degli uomini si compiono come su un altare, e ciascuno di voi, in questa unità del suo atteggiamento contemplativo lungo tutta la giornata, dice in qualche modo la sua messa, che dura 24 ore in attesa della messa seguente, che durerà altre 24 ore, e così fino alla fine della nostra vita. Sforziamoci perciò di recitare quest'ultima parte della preghiera eucaristica da veri innamorati. Teniamo presenti le considerazioni che faceva un sacerdote santo. È una realtà divina che mi commuove fino alle lacrime, quella che mi fa ripetere tutti i giorni lentamente assaporandole, mentre alzo tenendoli tra le mani il calice e la sacra ostia, le parole del canone. Per ipsum et cum ipso et in ipso, per lui, con lui, in lui. Io vivo per lui e per le anime, vivo del suo amore e per il suo amore, nonostante le mie miserie personali. E nonostante le mie miserie, forse, anzi proprio per loro, il mio amore è un amore che ogni giorno si rinnova. Giunti a questo punto, è opportuno chiederci quale consapevolezza abbiamo di trovarci con Cristo, e anche fino a quale profondità si incide nelle nostre anime la coscienza che il sacrificio del Redentore si ripete. Occorre poi esaminarci sulla frequenza con la quale, di mattina, di pomeriggio, di sera, il nostro pensiero va spontaneamente alla Santa Messa. Preghiamo per i sacerdoti. C'è un'enorme necessità di ministri sacri. Non lasciamo passare neanche un giorno senza chiedere a Dio il dono di molte sante vocazioni sacerdotali. Ascoltiamo la raccomandazione del Salvatore. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Luca 10:2. Chiediamo sacerdoti santi, dotti, allegri, disposti a servire tutte le anime. Questa preghiera è sempre necessaria, e tanto più lo è stata nel corso dell'anno sacerdotale, nel quale la Chiesa ha voluto contribuire a promuovere l'impegno di interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi. La Chiesa ha bisogno di sacerdoti santi, di ministri che aiutino i fedeli a sperimentare l'amore misericordioso del Signore e ne siano convinti testimoni. Preghiamo quindi con particolare fervore e fiducia per la santità del clero e per le vocazioni sacerdotali. La preghiera è il primo impegno, la vera via di santificazione dei sacerdoti e l'anima dell'autentica pastorale vocazionale. La scarsità numerica di ordinazioni sacerdotali in taluni paesi non solo non deve scoraggiare, ma deve spingere a moltiplicare gli spazi di silenzio e di ascolto della parola, a curare meglio la direzione spirituale e il sacramento della confessione, perché la voce di Dio, che sempre continua a chiamare e a confermare, possa essere ascoltata e prontamente seguita da tanti giovani. Chi prega non ha paura. Chi prega non è mai solo. Chi prega si salva. Modello di un'esistenza fatta preghiera è senz'altro San Giovanni Maria Vianney. Maria, la madre della Chiesa, aiuti tutti i sacerdoti a seguirne l'esempio per essere come lui testimoni di Cristo e apostoli del Vangelo.